Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, terza pillola estiva di Restiamo Animali, giovedì 26 luglio 2012, siamo con voi per vivere, pensare e agire cruelty free. In studio vi salutano con profondi inchini Massimo Chiari, Lorenzo Guadagnucci, Alessandra Giannini und Camilla Lattanzi, soprannominata anche la signorina Rottermeier. Rottweiler. La colonna sonora è sempre a cura di Giuseppe Coco. Iniziamo con Billy Idol, Eyes Without a Face, e finiamo con Just Stone, Tell Me What You Wanna Do Now. Per la redazione di Restiamo Animali non c'è una notizia più bella di questa. La liberazione di 2400 beagle che sono finalmente in cerca di una nuova casa e di una famiglia pronta a prendersi cura di loro. L'azienda sotto sequestro, Green Hill, lo ricordiamo, allevava questi cani per venderli ai laboratori di vivisezione di tutta Europa. Ci racconta questo esaltante momento Sara dell'associazione Vita da Cani, una delle tante associazioni che si stanno mobilitando per trovare gli affidatari. Che cosa sta succedendo, Sara? Aggiornaci. Già venerdì e sabato usciranno i primi cani, presumibilmente cuccioli. Poi si passerà all'arresto e saranno importantissime e molto faticose da collocare le fattrici, che sono ovviamente quasi tutte incinte. È una cosa emozionante perché finalmente arriviamo a vedere il camion che parte uscendo dal cancello di Green Hill, ma non per andare al laboratorio ma per andare in adozione. Questa è una cosa che a noi, che dal 2010 che ci occupiamo di questa situazione, ancora prima in fase di studio, è un momento importantissimo, anche se non è niente di definitivo. Il posto è ancora aperto, la lotta non è finita, questi cani vanno solo in custodia giudiziaria, quindi se la ditta dovesse vincere l'iter giudiziario dovrebbero ritornare indietro. Ovvio che non accadrà, che nessuno glieli vorrà restituire ovviamente, però insomma dobbiamo andare avanti fino alla chiusura totale di questo lager. Teniamo conto che anche i cuccioli che escono dalla pancia delle mamme sotto sequestro sono purtroppo loro malgrado sotto sequestro, quindi è una complicazione immensa la gestione di questa operazione, che è stupenda e per la quale abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, però è veramente molto complicata e senza precedenti. Noi ci eravamo occupati della vicenda Morini, ma era una situazione diversa, i numeri erano differenti, erano circa 300, ma poi erano dati definitivamente. Qua c'è tutto un iter molto complesso anche dal punto di vista documentale, perché sono degli affidi giudiziari. Alessandra, tu non ci crederai, ma la liberazione dei beagle mi commuove così tanto che navigo tra le mie stesse lacrime. Oh mio Dio! A proposito, navigo così di brutto che mi sta venendo il mal di mare. Puoi fare qualcosa per me? Ginger Ale, ovvero ginger dell'ale. Bibita inglese particolarmente gradita ai marinai perché riduce i sintomi del mal di mare, ma non solo. È anche una bevanda piccante, dissetante e soprattutto afrodisiaca. Afrodisiaca. Ingredienti per 4 bicchieri o 2 molto grandi: 20-25 grammi di succo di ginger, circa 60-70 grammi di radice, 50 grammi di succo di limone filtrato, è circa un limone grande, 70 grammi di sciroppo di agave, 600 ml di acqua gassata e ghiaccio, molto molto ghiaccio. Spelare la radice di ginger con un pelapatate e grattugiarla, o meglio tritarla in un super frullatore possibilmente. Lo spelucchino? Anche attenzione alle mani, attenzione anche a non disperdere il succo. Mettere la polpa di ginger così ottenuta nella solita garza oppure nella solita maglietta e strizzare accuratamente fino a estrarre tutto il succo. Spremere il limone, dopo averlo filtrato, mescolarlo al succo di ginger e allo sciroppo di agave. Riempire i bicchieri con un sacco di cubetti di ghiaccio, versare la miscela distribuendola equamente e riempire di acqua gassata fino al bordo. Guarnire, se volete, con una fetta di limone o eventualmente con delle foglie di menta. Un'altra importantissima realtà toscana che non perdiamo mai d'occhio è il rifugio Italian Horse Protection, che sta facendo un eccellente lavoro a favore soprattutto dei cavalli, ma non solo. Nei giorni scorsi l'Italian Horse Protection aveva sollevato il caso di Luca Innocenzi, un fantino che risultava tra i partecipanti della Quintana di Ascoli del 2012, pur essendo stato condannato lo scorso anno per doping in occasione della Quintana di Foligno. Qualche chicca dalle intercettazioni che comunque troverete nel nostro blog? Cose tipo toccafaglie in apera, sera, oppure diamogli un pochetto di benzina, la roba gliela facciamo tutta insieme o no, sì bombardarla proprio, eccetera eccetera. L'Italian Horse Protection aveva scritto al Ministero della Salute per denunciare che la partecipazione di questo fantino sarebbe stata inaccettabile dal punto di vista morale e giuridico, chiedendo quindi con urgenza di intervenire. Il Ministero ha inviato una diffida al prefetto di Ascoli e Luca Innocenzi era stato escluso dalla Quintana, ma il Tribunale di Ascoli Piceno ha sospeso la delibera che escludeva Innocenzi dalla gara. E quindi il fantino ha corso sabato 14 luglio nella giostra della Quintana in edizione notturna e correrà nuovamente il 5 agosto. Inutile dire che Vincenzi e gli organizzatori della Quintana salutano questa decisione del tribunale come una vittoria, mentre, sottolinea l'Italian Horse Protection, questa è una sconfitta dell'immagine del palio che con questo episodio getta la maschera. Altro che tradizione popolare, amore e rispetto per i cavalli. Adesso sarà più chiaro a tutti che cosa sono veramente queste manifestazioni, i pali, che vengono presentati come tradizione popolare e nascondono in realtà un giro d'affari che non ha niente a che vedere con la rievocazione storica. Lo dimostrano i sostanziosi montepremi e il fatto che spesso gli stessi fantini e gli stessi cavalli gareggiano in più di un palio. Lo dimostrano anche le continue inchieste sul doping e i tentativi di molti organizzatori di aggirare le pur scarne norme a tutela dei cavalli. E siccome il violentissimo palio di Siena si avvicina, invitiamo tutti i cittadini a far parte della campagna No Palio, lanciata da Italian Horse Protection. Potete digitare www.nopalio.it. Non ci siamo dimenticati di Paul Watson, il fondatore di Sea Shepherd, arrestato nei mesi scorsi in Germania per un procedimento giudiziario in Costa Rica, dove fu protagonista di un'azione in mare contro la caccia agli squali. Ne abbiamo parlato con Alberto Santelli di Sea Shepherd Italia. Alberto, qual è attualmente la situazione di Paul Watson dopo il clamoroso arresto che c'è stato in Germania? Dunque, Paul Watson è stato scarcerato su cauzione, 250.000 euro sono stati pagati da un sostenitore e ammiratore di Sea Shepherd, e quindi è fuori, diciamo, non è più in carcere, però non può uscire dalla Germania fin tanto che il governo non deciderà se concedere o meno l'estradizione a Costa Rica, che è la richiesta. C'è la possibilità che venga in Italia però a breve, se questa situazione si sbloccherà? Sì, dovrebbe venire in Italia a settembre, i primi di settembre, l'1, 2 e il 3 settembre, in occasione del Festival Vegetariano a Gorizia, e speriamo, perché sarebbe veramente una bella cosa averlo in Italia. Tra l'altro sarebbe il primo evento ufficiale di Paul Watson in Italia, quindi sarebbe una cosa importante. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate su restiamoanimali.wordpress.com. E vi salutiamo con una frase di Émile Zola, il grande scrittore francese: il compito più elevato di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.